Commentatore della storia della teologia e non soltanto di quella, curiosamente ieri è intervenuto con delle osservazioni critiche nei confronti dello studio della storia, ma questa era sì. In ogni caso il suo compito ora non è tanto quello dello storico quanto quello di chi, avendo acquisito quello che la storia più o meno ha potuto darci, ha l'impegno e affronta l'impegno tutt'altro che agevole di dire che cosa la storia può attendersi, o meglio che cosa la condizione del presente può richiederci, proprio perché questi discorsi che per ora ci hanno un pochino fatto vedere e guardare retrospettivamente possono diventare fecondi proprio nel cammino del presente e del futuro delle chiese. A lui dunque il compito di tracciare, per quanto è possibile, un'ermeneutica delle decisioni dottrinali nel contesto attuale dei rapporti fra le chiese. A lui la parola. Grazie. Ma due piccole precisazioni di metodo prima di iniziare a leggere la mia comunicazione. Appunto, il metodo che impiegherò è rigorosamente teologico, niente affatto storico, e in questa sede. Diceva Wittgenstein che il filosofo del linguaggio lascia il linguaggio così com'è. Lo spiega, ma non lo cambia. E io non voglio cambiare il linguaggio usato in questo volume con tutto quello che esso implica. Non metterò in discussione la fondatezza storica delle affermazioni vi contenute, ne prendo atto. Quello che io tenterò di fare, sempre per riferendomi a un'immagine di Wittgenstein, è di distinguere, lui parlava di gramma, di grammatica della superficie, della surface, io preferirei dire qui in questo caso c'è un'ermeneutica di superficie in questi documenti, ma c'è anche una ermeneutica profonda che forse è inconsapevole, che forse nel momento stesso in cui viene chiarificata verrebbe respinta, ma che è giusto precisare. Ed è alla ricerca di questi presupposti ermeneutici, di affermazioni che vengono fatte, no? Che è dedicata la mia comunicazione. Seconda premessa, qui dissentirei un pochino, come dire, dalla osservazione minimale che padre Verkroys ha fatto ieri sulla qualificazione teologica di questi accordi. E parto per esempio dal Gutachten, dal parere, poi dalla presa di posizione, non è un vero Gutachten, della conferenza episcopale tedesca. Bene, se noi dovessimo qualificare teologicamente quella presa di posizione, direi che andando alla storia della teologia e alla storia della tradizione cristiana dovremmo qualificarlo come l'atto di un concilio regionale, non nel senso attuale del termine, nel senso antico del termine. Se tutta una conferenza arriva a una decisione, è come se i vescovi riuniti ad Arles si manifestano. È come se i vescovi riuniti a Cartagine si manifestano sulla natura del peccato originale. E allora, ecco, minimizzare la portata teologica di questo intervento mi pare perlomeno problematico. Questo non è detto, questo non dice ancora che tutte le valenze ecclesiali e dottrinali poi siano consapevoli in loro e se ne tirino le conseguenze. Questa è un'altra questione. Ma diceva nostro maestro, possiamo dire almeno di alcuni di noi, Lonergan, i vescovi dicono est est non non, ma poi 100 anni dopo i teologi spiegano cur quare quia, perché hanno detto così, anche se loro forse non se ne rendevano conto, comunque l'hanno detto. E che nella presa di posizione dei vescovi tedeschi molto positiva, come diceva ieri il padre Verkroys, si arriva a dire che non è chiaro che i punti su cui ancora non c'è un accordo siano, ecco, kirchentrennend. Ma questa è un'affermazione molto grave in senso positivo. Significa che allora, se c'è il dubbio, non si giustifica la separazione, perché un dubbio non può giustificare una separazione delle chiese. Ma, ancora ripeto, non significa che appunto chi parla si renda perfettamente conto del modo in cui parla e dei presupposti a partire da cui parla. Ho finito le premesse e inizio la lettura della mia comunicazione. L'orizzonte di essa non è limitato ai risultati dello Ecumenischer Arbeitskreis dei teologi luterani e cattolici sul valore che per la situazione attuale delle chiese luterane e cattoliche rivestono le rispettive condanne del secolo XVI, ma abbraccia altresì alcuni risultati del dialogo tra la Chiesa bizantina e chiese orientali e tra Chiesa cattolica e chiese orientali. Ho messo io appunto di proposito nel titolo della mia relazione nel contesto attuale dei rapporti fra le chiese e non mi limiterò soltanto ai risultati della, come dire, del dialogo cattolico-luterano. Un ottimo status questione su questo secondo versante, quello orientale, attendo soprattutto al significato ancora attuale o meno del Concilio di Calcedonia, è offerto da un recente saggio di Dorothea Vandenburg, pubblicato l'anno scorso nella Zeitschrift für Theologie und Kirche. I punti che mi limiterò a trattare sono i seguenti. Primo, i risultati del dialogo ufficiale tra le chiese sul valore delle decisioni dottrinali del secolo XVI e del Concilio di Calcedonia. Secondo, le conseguenze che se ne debbono trarre per una ricomprensione dello statuto delle affermazioni dottrinali del passato, ma anche necessariamente per quelle attuali. E vi prego di notare questo piccolo cambiamento linguistico, preferirei parlare di affermazioni dottrinali più che di decisioni dottrinali. Terzo, una considerazione teologica sulla concezione della verità che a mio avviso è inevitabilmente presupposta da queste prese di posizione. Primo, i risultati. Se leggiamo le conclusioni dell'Arbeitskreis cattolico-luterano, dobbiamo constatare come, è un testo che già qui è venuto fuori, ma io lo ricito nuovamente, si trova a pagina 32 del primo volume delle pubblicazioni delle cosiddette Lehr Verurteilungen Kirchentrennend. Allora cito, nei confronti di una serie di sentenze di scomunica del XVI secolo, oggi dobbiamo dire che esse poggiavano su fraintendimenti della posizione contraria. Altre si riferivano a posizioni estreme, non obbligatorie ecclesialmente. Altre ancora non si applicano più al partner di oggi. E in altre, una nuova visione delle cose ha portato ad un alto grado di accordo. Tuttavia rimangono sentenze di esclusione per le quali ancora oggi non è possibile constatare un consenso sufficiente. È da chiedersi tuttavia se queste da sole possano giustificare il mantenimento della separazione delle chiese tenuto riguardo del mutato rapporto delle chiese e dei loro membri. Esse mantengono il significato di ammonizioni salutari, heilsame Warnungen. Quindi si dà uno statuto preciso, direi, secondo la linguistica, a queste affermazioni su cui ancora c'è un disaccordo. Sia per gli appartenenti, per tutte le decisioni del passato, sia per gli appartenenti delle chiese all'interno delle quali esse sono state formulate, sia per gli appartenenti alle altre confessioni. All'interno della propria tradizione esse ammoniscono. Siamo in quello che i linguisti moderni chiamano linguaggio performativo, non descrittivo. Esse ammoniscono a non ricadere dietro quelle chiarificazioni che sono state raggiunte dalle proprie chiese già nel secolo XVI. Ma esse mettono in guardia anche gli appartenenti alle altre confessioni dal comprendere ed esprimere la propria tradizione in maniera tale che le contrapposizioni, superabili grazie allo sviluppo teologico recente, possano nuovamente insorgere e conferire nuova attualità alle condanne di allora. Ciò sta a significare che per l'argomento che qui ci interessa, che è soltanto il tentativo di cogliere l'ermeneutica di queste conclusioni, che le reciproche condanne tra luterani e cattolici del XVI secolo non vengono messe in discussione sul loro carattere di verità. Si afferma piuttosto che la preoccupazione che le ha guidate era giustificata. Ma esse o semplicemente non hanno colto il pensiero dell'avversario, si tratta cioè di proposizioni senza referente storico, oppure con un referente totalmente marginale che non rappresentava la posizione dell'altro. Secondo, oppure sono superate quelle condanne dall'approfondimento successivo delle questioni. Terzo, nella parte in cui non sono superate, non sono tali da implicare necessariamente l'esclusione della comunione. Quarto, mantengono comunque un significato ammonitorio anche per il presente, nella misura in cui permettono, per così dire, di simulare, mi sia concesso questo prestito dal linguaggio informatico, gli eccessi da evitare dall'una e dall'altra parte. In parte simili, ma anche molto più complesse, sono le conclusioni che sono state formulate nei dialoghi che per comodità possiamo chiamare orientali, perché c'è un problema di traduzione di linguaggio tra Eastern ed Oriental, per noi impossibile, perché sono dialoghi tra le chiese Eastern, cioè in concreto le chiese bizantine, e le chiese orientali, in concreto le chiese monofisite. Ma anche se in misura certamente inferiore, con le chiese, chiamiamole per comodità, nestoriane. Così l'11 novembre 1994 il Papa Giovanni Paolo II e il Patriarca della Chiesa Sira dell'Oriente, di tradizione nestoriana, hanno firmato una comune dichiarazione nella quale hanno proclamato, cito, davanti al mondo, chiusa la citazione, la comune fede nel mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio, la comune fede, vero Dio e vero uomo. La sua divinità e la sua umanità sono unite in una persona, senza confusione o mutazione, senza divisione o separazione. L'umanità che la benedetta Vergine Maria partorì fu sempre quella dello stesso Figlio di Dio. Questo è il motivo per cui la Chiesa Sira dell'Oriente prega la Vergine Maria come la madre di Cristo, nostro Dio e Salvatore. Alla luce della stessa fede, la tradizione cattolica si rivolge a Maria come madre di Dio e quindi come madre di Cristo. Noi due riconosciamo la legittimità e la correttezza, rightness, di queste espressioni della medesima fede. E rispettiamo la preferenza di ogni chiesa nella sua vita e nella sua pietà liturgica. Poi vorrei sottolineare quest'ultima frase con particolare forza. Questa è l'unica fede che noi professiamo nel mistero di Cristo. Le controversie del passato hanno portato ad anatemi riguardanti persone e formule. Lo Spirito Santo del Signore ci permette oggi di comprendere meglio che esse sono sorte, che queste in gran parte furono dovute a incomprensioni. Di tenore simile sono le conclusioni a cui sono pervenuti i dialoghi tra le chiese ortodosse orientali bizantine e le chiese monofisite orientali copte, C'è stata una duplice fase molto lunga in questo dialogo. Dapprima erano dialoghi informali, Horus nel 64, Bristol nel 67, Ginevra nel 70 e Addis Abeba nel 71, ma poi si sono trasformati in dialoghi ufficiali che sono sfociati in una proposta pubblicata nel 93 nel numero 498 di Episkepsis. Cito: noi abbiamo compreso che le due famiglie hanno fedelmente rispettato l'autentico insegnamento cristologico ortodosso, nonché la continuità ininterrotta della tradizione apostolica, pur avendo utilizzato termini cristologici in maniera differente. Non so se ci si rende conto della portata di queste affermazioni. Non solo quindi gli anatemi del secolo XVI, ma anche quelli di Efeso e di Calcedonia non hanno saputo cogliere le intenzioni delle persone e delle formule condannate. Tuttavia, la registrazione di questi risultati ai fini della nostra riflessione sarebbe semplicistica se non si osservassero al tempo stesso alcune differenze. I cattolici sembrano più capaci di adattamento. Nella dichiarazione del Papa e del Patriarca Siro, ad esempio, viene riconosciuta la legittimità della preferenza data al titolo Christotokos dei Nestoriani. Invece, nel dialogo tra Bizantini e Copti è emerso un altro fatto importante che ha suscitato qualche perplessità nei commentatori. Mi riferisco soprattutto ad un articolo del compianto padre De Alleu apparso nella Revue Théologique de Louvain del 1990. Infatti, la discussa formula di Cirillo, padre comune, sia dei copti che dei bizantini, la formula cioè della mia fusis tu teu logus e sarcomene, dell'unica natura dei verbi incarnata, è stata scelta come base per la creazione di un consenso e di un superamento delle reciproche incomprensioni. Non già che essa escluda necessariamente la formula calcedonese delle due nature, ma essa costituisce, questa della calcedonese, la formula propria ad una tradizione soltanto, mentre la formula comune è quella di Cirillo. In altri termini, Calcedonia va interpretata alla luce di Cirillo e non viceversa. Non è chiaro, Vendeburg per esempio arriva a questa conclusione, per me non è chiaro se questo debba condurre ad una implicita condanna dell'errore di Nestorio e del cripto-nestorianesimo di Teodoreto di Ciro. Comunque diversa è nei due partners, cioè bizantino e copto, l'intenzione. Per gli orientali, i copti, si tratta della correzione del Concilio di Calcedonia. Per i bizantini si tratta della corretta interpretazione del Concilio di Calcedonia. Infatti ambedue le parti approvano le formule del Costantinopolitano II, quello contro i tre capitoli, tanto per intenderci, del 553, ma in senso differente. Per i bizantini si tratta dell'esatta interpretazione di Calcedonia, per i copti della correzione di Calcedonia. Con la conseguenza ulteriore che il Tomos di Leone, che accompagna Calcedonia, viene considerato nestoriano dagli orientali copti, accolto invece dai bizantini. Tutto questo però ferma restando la constatazione dell'unità della fede e della tradizione continua. Cioè, sono affermazioni che non sono concorrenti, ma che vengono mantenute tutte. Per un senso, quindi, ma la differenza, scusate, risulta ancora più grande nella considerazione del valore dei concili ecumenici. Mentre vengono comunemente accettati i concili del 325, Nicea, 381, Costantinopolo Torno I e del 431, Efeso, i concili di Calcedonia, Costantinopolitano II, Costantinopolitano III e Niceno II, cioè dal 451 al 787, vengono considerati dagli orientali come concili della Chiesa ortodossa, non comuni. Per un verso quindi, da tutte le parti, luterani, cattolici, bizantini, copti. Si chiede di togliere le condanne perché esse non hanno un referente storico. Ma dall'altra parte non si riconosce la tradizione propria dell'altra parte, come propria, perché questo coinciderebbe con la negazione della propria identità, della propria storia fatta di santi e di martiri, e questo è un fatto molto importante, soprattutto in Oriente. Cirillo è comune santo delle due chiese, che hanno combattuto contro la posizione avversaria. Fin qui i risultati, i dati, spero non eccessivamente interpretati da me. Seconda parte, conseguenze ermeneutiche. Come si pone in questo contesto, che a mio avviso rappresenta certamente una novità, che non può essere ignorata dal punto di vista teologico, in quanto traccia un nuovo consenso tra le chiese? Perché far dire, mi si permette un'osservazione banale, ma se i vescovi tedeschi sono convinti che non sanno se ciò che ci divide tra luterani e cattolici è ancora tale da giustificare la separazione fra le chiese, ma hanno detto molto, moltissimo. Hanno detto che non è giustificata la separazione fra le chiese, logicamente. Allora, come si pone in questo contesto allora l'ermeneutica delle affermazioni dottrinali? Che valore hanno formule di cui si afferma che sono prive di referente storico? A titolo di ipotesi cercherò di proporvi qui alcune riflessioni. E mi permetterete di non citare i miei punti di riferimento. Per gli addetti ai lavori, potremmo dire per un verso il padre Rahner, per altro verso Schlink, un autore che ha molto riflettuto e profondamente sul significato, un autore luterano, delle affermazioni dommatiche, e poi Zizulas. Una prima considerazione che possiamo fare verte sulla limitatezza e insufficienza della prospettiva veritativa nel senso proposizionale e descrittivo del termine, nel senso cioè in cui si dice che una frase descrive la realtà. La frase ad esempio dell'Efesino, secondo cui dalla lettura degli scritti e dalle affermazioni di Nestorio, cito, abbiamo constatato che egli pensa e predica empiamente, fine della citazione, viene implicitamente smentita da Giovanni Paolo II e dal patriarca Mardinka IV. Tutti cioè ammettono che gli anatemi dottrinali siano privi di referente storico. Da questo tuttavia non viene tratta la conseguenza che quelle affermazioni erano errate, le rispettive. Esse continuano a essere considerate vere, nella loro intenzione originaria, volta a salvaguardare un aspetto essenziale della fede. Si presuppone quindi che la verità delle affermazioni dottrinali sia di un genere particolare, diverso dal genere comune. Si presuppone, non si dice. Si presuppone ancora che quella verità resti nonostante gli errori e le incomprensioni riguardanti le formule usate alle persone. Non si può scivolare su queste aporie a zig zag distinguendo l'intenzione dalle espressioni usate. È indubbio infatti che negli anatemi del passato siano state intese alcune persone e le loro posizioni dottrinali. Forse si può distinguere tra diversi livelli di intenzionalità. La preoccupazione principale non era cioè la condanna della persona, e gli studiosi del Tridentino, chi potrebbero far valere l'estrema mortificazione del Tridentino nell'additare con nome e cognome, no? La persona condannata. Ma la salvaguardia della propria esperienza di fede. Ma questo significa che il referente delle affermazioni dottrinali deve essere collocato in questa esperienza di fede e mai separabile da essa. Ma se questo è esatto, la verità delle affermazioni dottrinali consiste nella loro funzionalità a conservare l'esperienza di fede di una determinata Chiesa. A questo punto mi pare necessario introdurre una considerazione storica e trarne una conseguenza ermeneutica. La considerazione storica verte sul fatto che prima di Nicea non esisteva nella prassi della Chiesa la possibilità di ricorrere a una, un'unica formula valida per tutti. Diverso era inoltre lo statuto stesso delle formule impiegate. Esse non determinavano la fede, non stabilivano la fede, ma non delimitavano la verità, ma la professavano, la invocavano, la testimoniavano. Siamo cioè sul registro della testimonianza della confessione e non sul registro della determinazione. Non è quindi senza importanza il passaggio dal primato della confessione e della invocazione a quello della determinazione della verità. Questa è una considerazione che già Casper nel suo libretto sul Domma di decenni fa faceva. Le chiese anticamente raccoglievano in un simbolo di fede il senso della verità da esse professate, un simbolo di fede che aveva quasi sempre un contesto liturgico, battesimale. Accanto ai simboli, soprattutto per determinare la disciplina, i primi concili formulavano dei canoni. Questa distinzione, per cui la verità può essere solo confessata e la determinazione oggettiva tocca la disciplina, di per sé è ancora netta nei concili di Nicea del 325 e di Costantinopoli del 381, ma non più per esempio a Calcedonia. Nicea tuttavia ha segnato una svolta importante. Infatti nell'epoca anteriore, come ho già accennato, non c'era una confessione di fede che potesse pretendere di fornire una dichiarazione la quale al tempo stesso fosse in quanto tale norma a cui erano obbligate tutte le chiese. La novità di Nicea dal punto di vista della evoluzione dello statuto della dottrina della Chiesa sta proprio qui. Ritter ha ragione, sottolinea, cito, che a Nicea stessa in primo luogo è accaduto solo questo, e cioè che per superare le controversie dottrinali insorte si accolse una formula di fede nella forma di un credo declaratorio, aggiungendo ad essa una serie di espressioni volte a precisarne il senso. L'intenzione era quella di far valere, a partire da questo momento, la formula così precisata come criterio dell'ortodossia. Citando Kelly, sempre Ritter sostiene quindi che da questo punto di vista, in realtà, a Nicea, nella storia dei simboli di fede iniziò una grande rivoluzione. Ma ciò fu possibile, aggiungo io, fu reso necessario, non soltanto possibile, ma questa è una mia aggiunta, perché ormai esisteva uno Stato unico per tutti i cristiani. Dell'unica confessione di fede per tutti, queste sono parole di, sempre di Ritter, fissata la lettera, alla quale, stando alle apparenze, tutto ormai andava a parare, la Chiesa è debitrice alla svolta costantiniana, in breve, allo Stato. Sempre di più, a partire dal IV secolo, si darà privilegio alla definizione e alla determinazione della verità. La trasformazione non è di poco conto. Infatti, la perdita della forma dell'invocazione, della confessione nella formulazione della verità, il contesto liturgico vissuto, comporta il rischio di perdere il riferimento stesso della verità e di esaltare la formula, l'enunciazione. I teologi medievali erano consapevoli in qualche modo del rischio e per questo elaborarono una concezione dell'articulus fidei che, pur mettendo in conto il rapporto necessario tra formula e verità creduta, relativizzasse in qualche modo la portata della formula stessa. La fede, cioè, non è rivolta all'enunciazione, ma alla cosa stessa, alla verità stessa. La considerazione ermeneutica che possiamo aggiungere a questa considerazione storica è che quello che essa mette in luce per il passato rende più urgente per l'oggi, contrassegnato da un pluralismo più radicale dei mondi vitali e delle culture, il ritrovamento del referente originario delle formule dottrinali. Esse non sono intelligibili fuori dal loro legame organico con la testimonianza di una determinata Chiesa, quale si esprime in un contesto liturgico, nel contesto della confessione. Mi affascina sempre questa importanza data anche da Bonifera alla disciplina Arcani, per riformulare oggi in un contesto secolarizzato la fede cristiana. Ma questa conclusione implica a sua volta un mutamento della visione di una autosufficienza della dimensione dottrinale. Il problema vero è cioè quello di una ricomprensione che vada fino in fondo, per ricomprendere lo statuto della dottrina, una ricomprensione che è imposta dal nuovo consenso che si è andato stabilendo anche a livello magisteriale. Solo così, del resto, si può accettare e comprendere una delle conclusioni del dialogo cattolico-luterano. Si afferma, ad esempio, cito dal libro a cui tutti stiamo facendo riferimento, pagina 87 e seguenti, che restano, a motivo della differenza della forma nella forma del parlare e nella prassi, considerevoli differenze all'interno dei due complessi, dottrinale luterano e dottrinale cattolico. Ambedue le parti fondamentalmente partono dai seguenti tratti costitutivi del sacramento. L'affermazione è relativa agli accordi sulla concezione dei sacramenti. Istituzione di Cristo, segno esterno, promessa specifica o rispettivamente comunicazione della grazia. Ma in concreto ne traggono differenti conclusioni. Si perviene quindi a due differenti sistemi in cui espressioni uguali ricevono un differente significato e affermazioni apparentemente differenti intendono qualcosa di analogo. Fine della citazione. Quando allora si colloca la differenza dei due complessi dottrinali, luterano e cattolico, nel motivo della differenza nella forma del parlare nella prassi, si afferma che la forma del parlare e della prassi, l'esperienza vissuta delle chiese, non tollera di essere ignorata se si vuole comprendere la natura della dottrina stessa che queste chiese hanno espresso. Non appartiene alla mia relazione analizzare le conseguenze che si impongono anche per l'ecumenismo, ma resta pur sempre necessaria una considerazione relativa al diverso apprezzamento che soprattutto nei dialoghi orientali si è avuto del ruolo dei concili ecumenici. Come abbiamo visto, il riconoscimento della stessa fede nelle differenti chiese porta inevitabilmente non ad una negazione, ma ad una relativizzazione della storia dell'altro. Calcedonia, Costantinopoli II, Costantinopoli III, Nicea II, non vengono condannati dalle chiese copte, ma non vengono accolti e riconosciuti come propri. Se ne accetta la legittimità in quanto storia di altre chiese con le quali ci si riconosce nella stessa fede. Analogo sembra il percorso che seguiranno, se ben capisco, cattolici e luterani. Non si tratta evidentemente di far accogliere Trento ai luterani e la confessione augustana ai cattolici. Questo atteggiamento, come bene ha visto Zizulas, non può essere sottovalutato, ma va visto in tutta la sua profondità. Il contrario equivarrebbe infatti a mettere in discussione la propria stessa identità. Il riconoscimento di questa identità non è dettato soltanto da motivi di orgoglio ecclesiale, ma dall'obbedienza allo Spirito che ha operato all'interno di ogni Chiesa, suscitando santi e martiri. In questa considerazione della propria storia dottrinale, come fatto non riducibile quindi a incidente storico, a incomprensione, ma come frutto dell'azione dello Spirito, la formula dottrinale rispettiva non si dimostra solo funzionale ad un'esperienza umana, ma in primo luogo funzionale all'obbedienza dovuta a Dio. Questo aspetto, tuttavia, impone una ricomprensione della unità della storia che Dio conduce con gli uomini e quindi dell'unità stessa delle chiese, ma in un contesto radicalmente più ampio, radicalmente diverso. Quale unità fra le chiese che si sono condannate a vicenda e hanno vicendevolmente prodotto martiri e si ritengono tutte legittimamente opera dello Spirito? Credo ecclesiam. Non sembra che si possa dare risposta a questa domanda senza recuperare la dimensione del futuro nella comprensione stessa della tradizione e quindi della verità cristiana. Si tratta di un'esigenza spesso enunciata, ma mai veramente approfondita a livello teologico. Noi non possiamo e non dobbiamo recuperare soltanto il nostro passato, ma noi possiamo e dobbiamo comprenderlo e recuperarlo solo a partire da ciò che Dio opera e opererà in noi, nelle chiese e nella storia. L'apostolicità della dottrina, come hanno ricordato in differenti contesti Sisiulas e Pannenberg, sta anche nella sua dimensione escatologica, di compimento. I dodici non sono solo segno della fedeltà al passato, sono soprattutto segno del realizzarsi della promessa escatologica, no? Della riunificazione del popolo, di Dio. Le chiese vengono continuamente introdotte a tutta la verità e all'unità nella verità. Ma questo implica una messa in discussione della funzione dell'anatema in quanto tale, dalla possibilità cioè che una formula dottrinale possieda la funzione, debba necessariamente possedere la funzione di escludere l'altro. Questa sembra essere del resto la conclusione del dialogo cattolico-luterano, laddove si afferma che le condanne del secolo XVI, come ho già detto, mantengono il significato di ammonizioni salutari, quindi non anatemi, ma ammonizioni salutari. A questa considerazione si può forse aggiungere che essa deve valere sempre, non soltanto per le formule del Tridentino, ma anche per quelle attuali. Che il fatto di poter ricomprendere oggi, grazie alle mutate condizioni, in maniera diversa le condanne di allora, non è accidentale, ma è costitutivo. Solo il futuro ci svela il passato. Solo il futuro svela che Nestorio non era nestoriano, che Severo non era severiano, e via dicendo. Con questo non si vuol dire che è impossibile che Ario sia stato effettivamente ariano. Qualcuno lo contesta, ad ogni modo, non si vuol dire. Che Utiche sia stato effettivamente utichiano. Prendo gli esempi più facili, me li permettete, con un po' di disonestà intellettuale, no? Si vuole semplicemente dire che il detto evangelico, non giudicare per non essere giudicati, cioè non anticipare il giudizio della separazione, possiede una sua valenza dottrinale che implica l'esigenza di lasciare al giudizio escatologico la conferma di ogni verità nella quale l'uomo ha la sua parte. Non ho avuto il tempo di verificare la citazione, quindi non l'ho scritta, ma mi permetterei di ricordare quel brano di Cipriano in cui diceva ai vescovi che non condividevano la sua soluzione nel problema dei lapsi, diceva loro di non separarsi dalla comunione, che poi Dio alla fine avrebbe giudicato chi ha ragione e chi ha torto. Questa considerazione non si oppone alla indefettibilità della Chiesa, anche nella dimensione dottrinale. Si vuole solo dire che una determinata affermazione della verità nella Chiesa non comporta necessariamente, né deve forse comportare, l'esclusione nel senso della condanna, dell'anatema, della consegna a Satana, di un uomo che si crede obbligato ad una affermazione diversa. Ma tutto questo, e vengo al terzo punto, implica una ricomprensione teologica della natura della verità cristiana. Si parla di quello che, di cui Ferrario parlava alla fine della sua relazione, diceva: che cosa dobbiamo fare adesso? No? Cioè, non si può, senza un mutamento profondo dell'ermeneutica, che noi ancora abbiamo, comprendere effettivamente il linguaggio attuale così come viene usato. Ho già sviluppato personalmente altrove, in un contesto più ampio, alcune riflessioni sulla verità. Mi sia permesso qui di sintetizzarle adattandole al nostro problema. Questo può essere formulato, il nostro problema, nei seguenti termini. È possibile una formulazione della verità cristiana sullo stesso argomento, cioè incarnazione, unità personale di Cristo, natura della giustificazione, della presenza reale di Cristo nei sacramenti eucaristici, eccetera, in maniera tale che essa resti radicalmente aperta ad altre formulazioni, anche quando queste appaiono contrarie? Uso l'espressione contrario e non contraddittorio, almeno nel senso di Aristotele, dove la contraddizione implica sempre, una frase possa essere vera e falsa nello stesso tempo, mentre due proposizioni contrarie possono essere concepite come estremi del medesimo genere, tali quindi da non implicare una contraddizione formale. Il bianco e il nero sono contrari, non contraddittori, perché possono essere considerati come due estremi dello stesso genere colore. Non si oppongono come vero e falso. La contraddizione invece implica la negazione dell'essere, mentre l'opposizione dei contrari è contenuta all'interno dell'essere. Non è la sola accezione del termine contrario, per cortesia, ce ne sono anche altre, ma è quella in cui io qui intendo usare. La teoria della... Ora, per rispondere a questo problema, non dal punto di vista logico, non intendo qui condurre una considerazione epistemologica, ma da quello teologico, occorre a mio avviso non tanto andare a teorie strane, quanto cercare dei riferimenti nella stessa tradizione cristiana per rispondere a questa domanda. Io ne cito due e poi ne vorrei articolare una mia, una terza. All'interno della teologia apofatica si dà la possibilità dei contrari. Si afferma e si nega di Dio la stessa cosa, proprio perché si presuppone che affermazione e negazione non colgano mai la usia di Dio, l'essenza di Dio, ma solo le sue manifestazioni e le sue energie. Intanto, cioè, un'affermazione resta aperta anche al suo contrario, in quanto la si colloca in un movimento dinamico mai compiuto verso la presenza di Dio, verso la verità di Dio, verso la usia Theou. Questo è il senso, come sappiamo, della teologia mistica della tradizione orientale. Le affermazioni, anche contrarie, non vanno quindi mai paragonate immediatamente, direttamente. Ma qui c'è anche un riferimento nella tradizione occidentale, perlomeno nella interpretazione che Priscivara ha fatto della dottrina dell'analogia del Concilio Lateranense IV, perché ogni similitudine, ogni affermazione contiene una similitudine sempre in movimento. Di un ritmo che nota la dissomiglianza sempre più grande nella pur reale somiglianza. E questo è il primo riferimento che noi abbiamo all'interno della tradizione teologica. Secondo riferimento, la dimensione spirituale, nel senso che è opera dello Spirito in noi, la verità. E lo Spirito in noi ci introduce progressivamente alla verità di Dio resa manifesta in Cristo. E quindi la dimensione escatologica della verità impediscono di bloccarci nelle formule. In tal senso anche la tradizione cattolica ha riconosciuto la perfettibilità delle decisioni dottrinali. L'ermeneutica profonda, non quella di superficie. Terzo, sì, ma soprattutto, ed è questo che vorrei sviluppare al di là delle due allusioni precedenti, è la natura stessa della verità cristologica che è aperta, che dice accoglimento, per cui essa, fin quando dura il regno del Cristo e fin quando questo non sarà consegnato al Padre, impedisce l'anticipazione del giudizio che separa per sempre il vero dal falso. La verità cristiana non è la semplice trasposizione all'interno dell'orizzonte cristiano di ciò che gli uomini hanno inteso dire lungo la loro storia dello spirito, che mi fermo all'Occidente evidentemente, con il termine verità. Il pensiero occidentale, mediante la categoria della verità, ha sostanzialmente espresso, sia pure attraverso innumerevoli varianti, il rapporto di una omogeneità possibile o impossibile nella soluzione scettica tra la realtà esterna e l'interiorità dell'uomo e l'intelligenza. Ciò che esiste è conforme e quindi accessibile o non accessibile, se non è conforme, all'intelletto. Già che ciò che esiste è conforme all'intelletto, questo è in grado di riprodurre la realtà e di emettere quindi affermazioni vere. Oppure, nella tendenza idealista, la realtà è accessibile perché lo spirito umano impone ad essa la propria struttura e organizza quindi la realtà in maniera conforme a se stessa. Sta qui la fondatezza di una tesi espressa ancora di recente a livello teologico, mi riferisco alla tesi di docenza di Kreiner, presentata a Monaco, mi pare però che adesso lui sia teologo fondamentale, se non vado errato, a Mainz, una cosa del genere, secondo cui alla base delle varie concezioni della verità esiste, come nocciolo duro, la teoria della corrispondenza. La verità è data dalla corrispondenza di ciò che viene detto con ciò su cui qualcosa viene detto. Tuttavia, a me pare che la teoria della corrispondenza non riesca ad esprimere il senso storico del riferimento alla verità in maniera completa. Al nesso tra realtà e linguaggio, tra essere e spirito, gli uomini hanno infatti più o meno sempre attribuito un carattere normativo per il loro comportamento, sia nel senso che questo deve corrispondere alla realtà delle cose, sia nel senso che le cose debbono essere adeguate alle esigenze dello spirito. Per gli antichi, il legame tra verità e norma era garantito dal carattere divino del cosmo. Il cosmo rappresentava l'armonia e la bellezza che sono riprese nella virtù dell'uomo, nell'adeguamento al mondo intelligibile e nel disprezzo della storia vista come decadimento, lontananza dalla verità, caduta. Per i moderni la subordinazione della realtà alle esigenze dello spirito è un fenomeno più complesso, oppostamente interpretato, come risultato di una svolta antropocentrica, che è essa stessa effetto del cristianesimo, oppure all'opposto, come ribellione dell'uomo moderno all'universo religioso cristiano. Teologicamente, tuttavia, il problema della verità assume una connotazione specifica. Questa connotazione è data non solo dalla esigenza di interpretare correttamente la rivelazione cristiana, verità come corrispondenza, e non soltanto dall'ovvia identificazione della norma con la rivelazione di Dio, genericamente intesa, verità come norma, ma altresì dal fatto che questa rivelazione identifica la verità con Cristo stesso. Questo fatto comporta in primo luogo un capovolgimento del rapporto tra universale logico e particolare concreto cristiano. Se è una persona concreta la verità, allora vale che ormai sia un particolare concreto della storia il metro di ogni possibile verità. Allora vale soprattutto che questo evento non è uno dei tanti in cui si applica una verità altrimenti nota, ma è esso stesso la norma, il criterio, la verità. In particolare, il particolare, o meglio, questo particolare, prende allora il sopravvento sull'universale, sull'idea. L'identificazione tra Cristo e la verità non può quindi, essere afferrata nella sua valenza propria solo a partire dal significato fondamentale della vicenda stessa di Cristo, quale emerge dalla testimonianza neotestamentaria. Se il Nuovo Testamento assegna un luogo alla verità, e se questo luogo è la vicenda umana di Gesù, Efesini 4:21, la verità è in Gesù, allora noi siamo obbligati non tanto a interpretare Gesù a partire da una verità comunque intesa, ma a comprendere il contenuto e le dimensioni della verità, almeno per i teologi, per i cristiani, a partire da questo luogo. Questo non comporta evidentemente una distruzione di qualsiasi concezione della verità che non sia quella cristiana, ma semplicemente la consistenza di un luogo a partire dal quale comprendere ogni altra verità. Cristo è verità in quanto rivela Dio stesso. La croce può essere compresa teologicamente solo come azione del Dio trinitario. Infatti, cito la seconda ai Corinti, tutta origine da Dio Padre, che ci ha scambiati, non riconciliati, ma scambiati, nel senso etimologico del termine, con sé mediante Cristo, e ha affidato a noi il ministero dello scambio, catallaghe, e non imputando agli uomini le loro colpe, ha posto in noi la parola dello scambio. Nell'autoannientamento di Cristo c'è quindi una profonda coerenza con la forma di Dio, come dice l'inno dei Filippesi. La verità di Dio, egli, essendo nella forma di Dio, prese la forma di schiavo. La verità di Dio si manifesta in Gesù in quanto Lui si fa solidale, con il destino di coloro che sono lontani da Dio. Viene cioè fatto peccato Cristo e maledizione. Ma questo vuol dire che a Dio corrisponde nella storia un rapporto con l'altro, un rapporto che non imputa a Lui le sue colpe e porta alla partecipazione al suo destino. In questa partecipazione, in questo farsi simile all'altro, in questa forma dello schiavo, appare l'essere di Dio. In Dio c'è quindi come movimento sostanziale l'ecstasis, l'essere nell'altro. La verità dell'evento cristologico, riassunto nella croce, consiste nella rivelazione che l'alterità fa parte necessaria della sostanza di Dio. Nella storia di Cristo viene posto cioè un rapporto con l'altro che è rivelativo, verità, del rapporto intradivino. Se la vicenda di Cristo, a partire dalla sua morte, viene nel Nuovo Testamento letta come assimilazione del Figlio di Dio alla condizione di chi è lontano da Dio, allora costui, no, è accolto nella sua diversità. Ma questa accoglienza della diversità, potremmo dire del contrario, non è un cedimento, no, anzi risulta coerente con l'essere di Dio quale ci è manifestato in Cristo Gesù. Cristo è verità proprio perché non adatta Dio al mondo dell'uomo, non aggiunge qualcosa a Dio venendo a patti con la verità degli uomini, ma manifesta semplicemente Dio, in quanto tale, in quanto manifestazione di Dio, nel senso del quarto Vangelo, in quanto verità, la comunione che Gesù pone con l'altro è norma di ogni verità nella Chiesa. Un altro aspetto, ma su questo permettetemi di sorvolare, è essenziale a questo. Questo comporta che la verità è la comunione ecclesiale, perché si tratta di rapporti con gli altri, nel momento stesso in cui realizza la conformità con Cristo, e mediante lui con il Padre, deve necessariamente aprirsi all'altro. Se fosse solo centripeta, logica della identità, non sarebbe conformazione al Cristo e non manifesterebbe la verità di Dio. Va compreso qui, reinterpretate evidentemente, il motivo giovanneo della insufficienza delle parole dette dal Cristo e dalla necessità che sia lo spirito di verità a introdurre a tutta la verità. Esiste quindi una storia della verità cristiana e di essa fanno parte, umanamente e storicamente, anche i conflitti delle diverse affermazioni. Ma la natura della verità cristiana implica la necessità di un continuo andare all'altro, di una continua assimilazione, di un continuo accoglimento dell'alterità. La verità del Cristo può essere quindi solo in avanti. Si comprende ancora qui, sia a partire dalla pneumatologia paolina, sia da quella giovannea, la dimensione escatologica della verità. Se cioè essa nella storia è verità che va compiuta in questo accoglimento, questo rispetto perlomeno dell'alterità ad imitazione di Cristo, è chiaro che adesso essa è opera dello Spirito del Cristo che permette a noi una continua assunzione dell'alterità, una continua ecstasis, la cui forma compiuta può essere solo la ricapitolazione finale di tutte le cose in Cristo, la consegna del regno di Cristo al regno del Padre, dove solo allora vigerà il giudizio. In questo senso, lo Spirito, ricevendo da Cristo, ci dice però cose che Cristo non ha detto e introduce a tutta la verità. Il carattere escatologico della verità, quindi, non è in contrapposizione alla verità cristologica, ma è anzi strettamente connessa al fondamento già posto, all'unità già data, proprio perché l'altro è già stato accolto. E perché questa è la verità, la rivelazione dell'essere di Dio, allora la storia diventa vera nella misura in cui in essa c'è scambio, riconciliazione. La conversione dell'altro, che è resa possibile dall'energia della risurrezione, è conversione a questo movimento di scambio, non alla mia identità. La comunione della verità a partire dal Cristo non può essere concepita come il ritorno dell'altro, ma solo in avanti, come crescita comune verso la piena maturità del Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo, Efesini 4:13. Si danno tuttavia epoche, nel senso heideggeriano del termine della verità, e che per Heidegger non è come per Husserl l'epoche una messa tra parentesi della verità, ma è una fase e quindi un erramento, una beirrung, nel doppio senso del termine, che contiene un errore ma è anche un errare attorno alla verità. I credenti errano nell'orbita della verità dando figure e interpretazioni della verità che segnano i segmenti del tempo cristiano. In queste figure o erramenti della verità si traduce la fatica della conversione al Signore di coloro che hanno ascoltato la sua voce, la difficoltà di piegare nell'adorazione del crocifisso le diverse concettualità umane. Abbiamo già accennato all'epoca della verità cristiana, un'epoca che non è uguale alla precedente, introdotta dal Concilio di Nicea. Possiamo ricordarne almeno per i cattolici altre due. Una è senz'altro costituita dal sorgere della teologia come scienza, dove il carattere della stessa dottrina viene ad essere mutata dalla sua caratterizzazione come scienza, nel senso che a partire da questo momento la teologia, e conseguentemente la concezione della verità, è divenuta subalterna, ma in senso diverso a quello di Tommaso, perché ancora per Tommaso il subalterno indicava i principi ricevuti dalla fede, ai criteri della verità scientifica che man mano saranno elaborati in Occidente. All'inizio, l'operazione che portò all'assunzione delle istanze del sapere scientifico nella sua concezione aristotelica all'interno della verità cristiana fu senz'altro l'espressione di un'istanza evangelica. Il padre Chenieu qui ha scritto cose meravigliose. Un'assunzione dell'alterità era la nuova cultura urbana che veniva in questo modo integrata dentro il sapere cristiano. Ma questa operazione conteneva in sé un rischio al quale le generazioni successive non furono sufficientemente attente: la perdita della connotazione della conoscenza della verità come esperienza resa possibile dalla comunione vissuta con Cristo. La verità, nella riflessione teologica successiva, sarebbe stata pensata sotto quello che von Balthasar chiama il peso della scissione tra il movimento teologico dottrinale e la comunione vissuta con il Cristo, la vita cristiana nella sua dimensione spirituale. Scompare così quasi completamente dalla vista dei teologi il fatto che il concetto pieno di verità che ci offre il Vangelo consiste proprio nella rappresentazione vivente della teoria nella prassi, del sapere nell'agire. Qui von Balthasar cita Giovanni 8,32: se osserverete la mia parola, allora conoscerete la verità. E infine qui è necessario l'accenno ad un'altra epoca della verità, quella che culmina nel moderno concetto cattolico di dogma. Essa, questa moderna concezione della verità cristiana tra i teologi, tipica dei cattolici, è un prodotto di un'altra divisione, quella delle chiese dell'Occidente. Il tratto più significativo della concezione della verità sta ormai non nella determinazione del suo contenuto, ma nella determinazione del suo divenire, del modo in cui può essere ottenuta. In altre parole, e cito da un autore che mi ha meravigliato, che è al di fuori di ogni sospetto, Zöll, nel suo volume dello Handbuch der Dogmengeschichte, Dogma, un Dogmen ed Entwicklung, in altre parole, la risposta alla questione cos'è un dogma viene surdeterminata dalla risposta alla questione cosa può all'interno della Chiesa Cattolica diventare un dogma? Solo ciò che il Magistero può dire, in funzione pubblica e solenne. E questa fu la risposta elaborata soprattutto nel clima della controversia antiprotestante, attraverso Stapleton, Bellarmino, Gotti e altri ancora. La definizione, per così dire, ultima del dogma nella moderna teologia cattolica, e la quale sarà ripresa poi dal Vaticano I, si ha con Philip Neri Crisman, che influenzato dal gesuita François Véron dirà, cito, che dogma di fede non è altro che una dottrina o verità rivelata da Dio. Ma questo non è importante, perché allora non è dogma, allora è veritas de fide divina. Ma una dottrina o verità di Dio, la quale viene proposta a credere con un atto di fede divina mediante un giudizio pubblico della Chiesa, in maniera tale che la dottrina contraria venga condannata come eretica. In altre parole, qui la verità viene concepita in funzione della difesa della propria specificità, l'autorità del giudizio pubblico della Chiesa, cioè del Magistero della Chiesa Cattolica, è in funzione della delimitazione dell'eresia. Ma questo concetto è possibile solo nel contesto di una rottura della comunione ed è funzionale al mantenimento di questa rottura. Le tre figure o epoche della verità a cui ho sommariamente accennato sono attraversate quindi da una triplice dislocazione: la dislocazione della verità nell'unicità di una formula, nella unicità di una formula, la dislocazione della verità nel momento conoscitivo e conseguentemente dottrinale, la dislocazione della verità nella funzione della identità e conseguentemente della delimitazione. Concludo. I nuovi accordi dottrinali, a mio avviso, hanno disegnato una nuova costellazione. Non ho detto che siamo consapevoli ancora di questa nuova costellazione, entro la quale sarà possibile orientarci solo attraverso una profonda riformulazione dell'ermeneutica teologica post-tridentina, sia cattolica che protestante, e forse anche orientale. Infatti, nonostante le spinte di alcuni suoi teologi, la tradizione orientale sembra troppo attaccata al proprio passato, spesso in contraddizione con le sue stesse premesse di una concezione vivente e dinamica della tradizione. I nuovi accordi dottrinali, infatti, cercano di ripercorrere a ritroso la storia delle divisioni delle chiese. Fino adesso sembra che abbiano preso atto solo di alcuni dati della ricerca storico-critica, che permette di meglio situare e quindi di relativizzare le condanne del passato. Ma se si vuole percorrere fino in fondo il cammino, Occorre riprendere in considerazione i presupposti ermeneutici stessi, la concezione ultima delle verità, delle sue formulazioni, della loro funzione ecclesiale, che sottostava a quelle condanne. La grande venerazione per Nicea, ma poi potremmo dire per Trento e per tutti gli altri, l'accoglimento sincero anche delle sue formule, non ci deve però impedire di cogliere al tempo stesso la portata ambigua della sua svolta alla unicità di questa stessa formula come formula universale. Del resto lo sappiamo, lo stesso Atanasio a un certo punto la mise in crisi, no? Che per forza dovesse essere l'homoousios. Ma questo è ancora un cammino davanti a noi. Grazie. Ringrazio il professor Pino Ruggeri per questa relazione. Ieri sera aveva annunciato, e il padre Ferrucci sembrava meravigliarsi, che sarebbe stato allargato l'ambito problematico. Credo di non essere stato per nulla smentito. Quello che c'è di più importante è che non soltanto l'ambito problematico è stato allargato, ma sono state profilate anche delle precise piste di riflessione e di soluzione che sono quanto mai promettenti e quantomeno sconcertanti rispetto a certe mentalità stabilite. Questa è la migliore ragione, la migliore condizione per iniziare ora un dibattito.